Riprendiamo una conversazione che è stata iniziata qualche settimana fa, perché come quasi tutti di voi sanno e hanno visto, il professor Giannulli, oltre a essere un eminente cattedratico e uno storico preclaro, non l'ha detto nessuno, è anche un amico della nostra società che già ci ha parlato qualche settimana fa e aveva iniziato un discorso che non avevamo concluso per motivi logistico-ambientali e anche lì con qualche piccolo contrattempo. E quindi oggi intende fare intrattenerci su un tema, psicologia, pubblicità e guerra, come avete visto, che è estremamente intrigante perché sono cose che come cittadini, prima che come professionisti, maneggiamo e sentiamo tutti i giorni. Tra parentesi, mi è capitato, e forse qualcuno di voi l'ha visto, che proprio 3 settimane fa su Repubblica, sul venerdì di Repubblica, c'era un articolo del professor Giannulli: sesso, veleni e divise, così si inaugura il congresso del Partito Comunista Cinese, che è una che mi sono letto doppio, che già avrei letto comunque, poi sapendo di doverlo incontrare oggi ho letto ancora con più interesse, per cui se poi qualcuno di voi se l'è perso sono disponibile a far girarlo. Siccome a nessuno interessa ovviamente la mia introduzione, ma quello che dirà il professor Giannulli, gli lascio subito la parola.